il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È l'asparago bianco il protagonista di questa puntata del quadrifoglio. È infatti appena stata inaugurata la rassegna Germogli di Primavera, 8 appuntamenti in altrettanti comuni del Trevigiano e del Veneziano dedicati a questo prezioso frutto della primavera. La rassegna è giunta all'11ª edizione e raccoglie in un unico progetto, almeno per una volta superando i vari campanilismi e grazie alla disponibilità delle Proloco, le tradizionali feste dedicate agli asparagi a indicazione geografica protetta di quest'area del Veneto. Il primo appuntamento si è aperto proprio questa settimana a Quinto di Treviso e la rassegna si concluderà a Scorzè a metà maggio, passando per le feste di Zerobranco, San Polo di Piave, Badovere, Borgo Malanotte, Attezze di Vazzola, Cimadolmo e Preganziolle. Tutte queste informazioni poi le potete trovare sul sito internet germogliodiprimavera.tv. E abbiamo con noi oggi per parlarci dell'asparago e di queste iniziative il sindaco di Morgano, Daniele Rostirolla, a cui do il benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. Bene, allora la ringrazio della disponibilità e intanto volevo un po' capire l'importanza di questo dell'asparago nelle vostre zone. Ben 8 appuntamenti dedicati a questo, abbiamo detto, frutto di primavera. Sì, innanzitutto sono 11 anni di rassegne sotto la regia dell'Umpli di Treviso che vedono 8 e 20 rassegne gastronomiche in particolare e comunque di prodotti tipici in tutta la provincia di Treviso. In particolare mi preme sottolineare che noi siamo inseriti come la festa più anziana del territorio, in quanto quest'anno ci sarà il compleanno, i 50 anni di attività della mostra dell'asparago di Badovere. Ecco, quindi sì, perché Badovere è la festa di Badovere in comune di Morgano. Badovere in comune di Morgano, e all'interno appunto di queste 8 rassegne si vedono due denominazioni IGP, i cugini di Cimadolmo, l'asparago di Cimadolmo, l'asparago bianco di Cimadolmo IGP e l'asparago di Badovere IGP, che sono accomunate da una lunghissima tradizione derivante dalla fertilità dei nostri terreni e dei nostri fiumi che attraversano la nostra provincia, in particolare appunto il Piave e il Sile. Ecco, infatti la coltivazione di questo degli asparagi nelle vostre terre è storica, non è una cosa recente, ma data secoli addietro, e appunto proprio grazie alla fertilità dei terreni, il Piave e il Sile, terreni alluvionali, fertili, ricchi di minerali principalmente, quindi ideali per la coltivazione degli asparagi, che spesso si pensa più a zone sabbiose, non so, invece questi sono terreni adatti. Ma se si pensa che la coltivazione dell'asparago risale all'antico Egitto, per cui lungo il corso del Nilo, un fiume, la presenza di limi e sabbie molto particolari e molto fertili. L'origine dell'asparago qui nel Veneto risale addirittura all'epoca romana. E si suole dire che dove c'è un grande fiume c'è anche una grande cultura, per cui lungo il Piave, lungo il Sile, sono territori che si prestano molto bene alla coltivazione dell'asparago, ed in particolare la caratteristica geomorfologica di questi terreni che ha consentito a un prodotto come l'asparago, un prodotto principe per il nostro territorio, per la nostra economia agraria, di essere coltivato e con ottimi risultati, direi. Voi avete due prodotti a riconoscimento a marchio europeo, l'asparago bianco di Cimadolmo e quello di Badovere. Qual è un po' la differenza tra questi due prodotti? Ma allora, innanzitutto l'asparago di Cimadolmo, non compete a me parlare dell'asparago di Cimadolmo in quanto sindaco del comune di Morgano, l'asparago di Cimadolmo è solo asparago bianco, mentre l'asparago di Badovere si fregia anche della qualità verde, per cui l'identificazione geografica protetta è data sia all'asparago bianco che all'asparago verde. Le caratteristiche sono leggermente diverse, i degustatori dell'asparago dicono che l'asparago di Badovere sia leggermente più dolce, mentre l'asparago di Cimadolmo abbia una caratteristica al gusto un po' più amara, ma non di meno buona, assolutamente. E quello che accomuna questi due prodotti sono sicuramente gli aspetti nutrizionali, la qualità della coltivazione, l'attenzione alla coltivazione. È un prodotto che è di qualità, che non ha nulla a che vedere con altri prodotti che troviamo massivamente nei mercati anche fuori stagione. Mi riferisco a prodotti spagnoli, cileni, messicani, che arrivano magari anzitempo presso le nostre tavole, ma sicuramente con delle caratteristiche che non nulla hanno a che vedere con i nostri asparagi, ai quali accomuno anche l'asparago di Bassano, tanto per dare proprio una filiera veneta di tutto l'asparago, che sono di un calibro eccezionale. Molto sapore, ricchi di vitamine, di minerali, con comprovate proprietà diuretiche e depurative, grazie appunto al forte e notevole contenuto di acqua e di fibre. Bene, torniamo su questo argomento tra poco, ci fermiamo per qualche minuto. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. You Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di asparagi, in particolar modo dell'asparago bianco di Cima d'Olmo e dell'asparago di Badoere e di 8 appuntamenti in vari comuni del Trevigiano e del Veneziano che compongono assieme la rassegna Germogli di Primavera. Ne stiamo parlando con Daniele Rostirolla, sindaco di Morgano. Abbiamo visto le qualità di questi asparagi prodotti in queste zone, quindi anche il terreno particolarmente adatto. Dove vengono distribuiti? Si trovano solo dalle nostre parti oppure è un prodotto che comincia ad avere un suo mercato anche fuori del Veneto? Dunque, il prodotto asparago, parlo prevalentemente per l'asparago di Badoere, ma anche e soprattutto di Cima d'Olmo, è una consumazione prevalentemente locale. Non possiamo dire di avere grandissime quantità di superficie coltivata, ma il marketing che i consorzi di promozione stanno appunto mettendo in atto dal punto di vista territoriale sono molto significativi anche per l'estero. Un'attenzione viene soprattutto dal mercato tedesco che ricordiamo in particolare per l'asparago bianco, la Germania è il più grosso produttore di asparagi d'Europa, però volge l'attenzione ai nostri prodotti per la qualità, per la particolare tipicità e sapore che i nostri asparagi hanno. Ne è dimostrazione il fatto che quest'anno abbiamo presentato e come presentiamo da molti anni alla Frutto Logistica di Berlino, una delle più grosse fiere dedicate al settore a livello internazionale, si svolge a febbraio, abbiamo presentato e presentiamo continuamente l'asparago e l'attenzione soprattutto da parte dei buyer locali è molto alta, in particolare il mercato tedesco e anche in parte olandese. Abbiamo bisogno di numeri, abbiamo bisogno di terreno coltivato, cosa che per ora abbiamo ancora da lavorare su questo argomento, però sicuramente c'è un valore aggiunto. Quindi ci sarebbe richiesta di ulteriore prodotto, c'è bisogno di chi lo coltivi? Assolutamente, anche il mercato giapponese richiede molto il nostro asparago. Non di meno parliamo del prodotto trasformato, oppure quel prodotto che viene stoccato e viene trasformato a fine lavorazione attraverso l'utilizzo del prodotto, diciamo, non di seconda, ma quel prodotto che non viene più venduto, oppure che non è determinato dal marchio IGP perché è di pezzatura diversa, che viene lavorato e può essere sicuramente utilizzato per delle confetture, delle creme e quant'altro, e amplia il valore del mercato a 365 gradi e a 365 giorni. Pertanto è questo l'imprinting che si vuole dare all'asparago, non solo asparago consumato fresco, che è la cosa migliore che si possa avere, ma anche un asparago che abbia una stagionalità un po' più ampia. È un mercato in continua ascesa e lo dimostrano anche i dati che in una recente conferenza sono stati illustrati. È un mercato che ha delle grosse marginalità e su questo stiamo puntando sia dal punto di vista del marketing agricolo che anche dal punto di vista turistico. Ecco, la prima cosa che state facendo sono queste iniziative che abbiamo visto, questi appuntamenti, visto che lei è il sindaco di Morgano e quindi di Badoero, volevo chiederle, e visto che questa festa fa il trentesimo anniversario, cinquantesimo anniversario, quando si tiene e che cosa ci sarà di particolare quest'anno? Beh, come ha detto lei, ha anticipato, quest'anno compiamo il mezzo secolo di storia e la nostra festività, il giorno cardine è sempre il primo maggio qui a Badoere, in piazza, la bellissima piazza della Rotonda di Badoere, piazza Settecentesca, racchiude l'evento principe della mostra. La festa comincia il 22 di aprile e si conclude il 7 di maggio del 2017. E in questa occasione, come anche nelle occasioni precedenti, il prodotto principe appunto è l'asparago, ma abbiamo varie iniziative che coinvolgono tutta la nostra territorialità, tutta la nostra gente e tutti i simpatizzanti, gli amici che dei vari territori, delle varie province ci vengono a trovare. Per noi è un prodotto identitario, è sintomo di forte identità e di forte riconoscimento nel territorio, per cui l'asparago come mezzo, come dicevo prima, di marketing territoriale alla quale abbiamo legato appunto il prodotto della terra. Ed è un modo anche per difenderci da tutte le imitazioni e per dare un valore all'economia agricola e alla piccola economia anche artigianale di un territorio. Bene, la ringrazio e a questo punto appuntamento a Badoere il 1° maggio o comunque nella settimana prima o la settimana dopo, oppure in una delle altre 7 iniziative che voglio ricordare velocemente a Quinto di Treviso, già iniziata in questi giorni, e poi a Zero Branco, San Polo di Piave, Borgo Malanotte, Attezze di Vazzola, Cima Dolmo e Preganziol e per concludersi il tutto a Scorzè a metà di maggio. C'è un sito internet germogliediprimavera.tv, Trevi, come Trevi, la sigla di Treviso, dove si possono trovare tutte le informazioni. La ringrazio. Grazie, vi aspettiamo numerosi. E concludiamo questa trasmissione con due notizie che in realtà sono due mostre che si stanno tenendo, che sono partite in questi giorni. Estinzioni, storie di animali minacciati dall'uomo è il tema della nuova mostra inaugurata all'Orto Botanico di Padova, visitabile fino al 26 giugno. Si tratta di 34 storie di animali a rischio di estinzione raccontate dalle sculture di Stefano Bombardieri, da modelli iperrealistici e dagli animali tassidermizzati delle collezioni di specie protette dei musei di storia naturale, zoologia veterinaria dell'Università di Padova e altre collezioni di specie protette del Museo Cappeller e del Museo di Storia Naturale di Bassano del Grappa. L'esposizione rappresenta la conclusione di un progetto di ricerca nazionale coordinato da Telmo Pievani, evoluzionista e divulgatore, promosso dall'Università di Padova, e completa idealmente il percorso avviato con Estinzioni, storie di catastrofi e altre opportunità, un'altra mostra allestita contemporaneamente al Museo di Trento e visitabile anche questa fino al 26 giugno, dedicata ai fenomeni delle estinzioni storiche. La seconda mostra è stata aperta a Vicenza nella sede della Biblioteca Internazionale d'Avigna. È una mostra fotografica dal titolo Sulla via della seta in Cina. Si tratta di una mostra di immagini fatte nel 1859 dal padovano Giacomo Caneva durante un viaggio in Cina al fianco di una spedizione incaricata di raccogliere informazioni sulla produzione di seta cinese. La mostra accompagna la pubblicazione di una versione in lingua cinese e inglese del volume edito a seguito di quella spedizione dal friulano Giovan Battista Castellani. La mostra rimane aperta fino al 21 aprile 2017 ed è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Con questo è tutto, vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio la prossima settimana, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.